Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si scrive TTIP, ma si potrebbe leggere anche TTIP. È una sigla alla quale guarda con apprensione gran parte del mondo produttivo e agroalimentare italiano. Si tratta infatti del trattato transatlantico sul libero scambio tra Stati Uniti d'America e paesi dell'Unione Europea. Un trattato che potrebbe essere una grande opportunità per l'economia anche italiana, ma che solleva in molti più di qualche apprensione. In questa puntata del Quadrifoglio iniziamo ad approfondirlo e lo facciamo con Nelly De Francesco, professoressa di economia e politica agraria del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Grazie intanto alla professoressa per la disponibilità. La domanda è proprio questa, che cos'è esattamente, di cosa si occupa questo TTIP? Buongiorno, sì, il TTIP è un trattato che si sta in questo periodo negoziando tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America e che si occupa di regolare tutti quei capitoli che dovrebbero portare ad un libero scambio tra queste due aree geografiche, quindi l'abbattimento delle barriere sia tariffarie e i dazi, per capirci, sia una serie di barriere di tipo cosiddetto non tariffario, quindi tutta una serie di ostacoli che impediscono, diciamo, attualmente la circolazione delle merci. Ci sono tematiche molto controverse all'interno di questo TTIP che si stanno cercando di negoziare in maniera appropriata. In particolare ci sono molti temi che riguardano l'agricoltura, quello di cui ci occupiamo oggi in particolare riguarda la tutela di quelle che si chiamano internazionalmente le indicazioni geografiche, cioè quelle che da noi sono le denominazioni di origine protette DOP e IGP, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari, agroalimentari, pensiamo al formaggio asiago, al montasio, ai vini e parmigiano reggiano, gorgonzola, prosciutto di Parma, il prosciutto di Montagnana. Ecco, questi sono alcuni esempi delle indicazioni geografiche che l'Unione comunitaria vuole comunque tutelare anche nell'ambito di questi trattati. Perché questo trattato potrebbe mettere a rischio queste denominazioni, queste tutele? Diciamo che in generale tra il sistema legale che tutela l'indicazione geografica a livello comunitario, che è un sistema che le tutela permanentemente, ne protegge i nomi e i metodi di produzione per indefinitamente nel tempo e li tutela anche rispetto alle traduzioni, per esempio, quindi in Europa è pienamente tutelato, faccio un esempio, parmigiano reggiano come denominazione di origine protetta, ma è tutelato anche dai nomi tradotti o imitati, tipo parmigiano laico oppure le traduzioni parmesan. Il sistema legale che regola invece queste indicazioni geografiche negli Stati Uniti è completamente diverso, è basato sopra un sistema, diciamo, di marchi depositati e registrati che hanno un'organizzazione legale diversa, è inutile entrare in questo momento nei cavilli legali. Diciamo che in questo momento alcune delle nostre importanti denominazioni di origine possono essere esportate con una certa difficoltà nei paesi terzi sotto questi regimi, diversi regimi di tutela, proprio perché esistono già dei marchi registrati in quel paese sotto quel nome. Per esempio il marchio privato Asiago, per esempio, oppure non so, il marchio privato Parma riferito ad un prosciutto crudo che è prodotto in Canada e è registrato con questo nome. Perché mi pare che in Canada già sia stato raggiunto un accordo simile tra appunto Canada e Unione Europea, e se ho capito bene vi sono dei marchi che sono nostri e in Unione Europea, tipo quello asiago, che sono stati registrati da altre persone tempo fa anche in quei paesi, e quindi si crea il problema di gestire un doppio marchio. Sì, con gli Stati Uniti, con il Canada è stato già sottoscritto un trattato di libero scambio che si chiama CETA, che adesso è in ratifica presso il Parlamento europeo, quindi non è ancora entrato in vigore. Diciamo che all'interno di questo trattato si è raggiunta una soluzione non ottima, ma una buona soluzione di compromesso che permette la totale protezione di molte indicazioni geografiche comunitarie, oltre 40 italiane, e per alcune di quelle denominazioni che sono in conflitto con dei marchi registrati, per esempio canadesi, era il caso di questo Parma di cui parlavo in precedenza. Mentre in passato, prima della ratifica di questo accordo, il prosciutto di Parma, per esempio il nostro prosciutto di Parma DOP, non poteva essere venduto con questo nome all'interno del territorio canadese, perché era in conflitto con un marchio privato già di un'impresa locale. Adesso per alcuni di questi prodotti è stata raggiunta una soluzione di compromesso, diciamo di coesistenza. Questo chiaramente non è la soluzione ottima, massima, desiderata dai nostri produttori, ma è comunque una soluzione che permette, diciamo, la coesistenza pacifica, diciamo, tra questi marchi. Quindi da questo punto di vista anche il TTIP, per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche, potrebbe essere anche visto come un'opportunità, anche se sarà una soluzione di compromesso. Bene, torniamo a parlare di questo argomento tra poco, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di TTIP, il Trattato Transatlantico sul Libero Scambio tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Ne stiamo parlando con Edi De Francesco, professoressa di Economia e Politica Agraria del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Uno dei motivi per cui questo trattato è così importante è il punto di vista economico, ovvero le previsioni parlano di una crescita dell'economia sia europea sia americana, e una crescita anche sostanziosa, nel caso che questo trattato venga approvato. Che cosa in particolar modo potrebbe migliorare? Beh, sicuramente per quanto riguarda le produzioni europee di qualità, in particolare produzione a denominazione di origine, e dunque in particolare anche per quanto riguarda le produzioni a denominazione di origine italiane, va ricordato che Italia, Francia e Spagna sono i paesi europei più importanti per quanto riguarda il fatturato all'esportazione di queste denominazioni di origine, potrebbero esserci degli ampi margini di espansione, proprio per il fatto che alcune delle denominazioni di origine oggi tutelate e che cercano di entrare anche nel mercato statunitense vanno incontro a quegli ostacoli che menzionavo in precedenza, quindi per esempio il fatto di confliggere con marchi preesistenti, questo genera dei costi per esempio per cause legali molto importanti, insomma. Citiamo per esempio il caso del prosciutto di San Daniele che negli Stati Uniti ha dovuto investire oltre $1 milione, se non ricordo male, per una causa che riguardava la tutela del proprio nome, San Daniele, nei riguardi di un prosciuttificio locale che si chiamava Daniele. Ma anche perché spesso in passato, come posso dire, sono i conflitti commerciali che sono sorti tra le due aree del Pacifico, che hanno riguardato tematiche agricole o anche non agricole molto varie, hanno fatto sì che gli Stati Uniti adottassero come forma, diciamo, di ritorsione delle barriere di tipo sanitario legate temporaneamente, insomma, invocando le barriere di tipo sanitario per impedire, diciamo, a molti nostri prodotti di accedere al mercato statunitense. Naturalmente tutte queste cose verrebbero meno se nel caso si siglasse in maniera onorevole, diciamo, per la tutela di queste denominazioni il trattato stesso. C'è anche da dire che naturalmente questo non impedirà, per il successo di queste produzioni, volevo dire, è necessario anche che le imprese continuino la loro attività di comunicazione e di promozione delle denominazioni all'estero con investimenti specifici e a riguardo bisogna riconoscere che l'Unione Europea stanzia parecchi fondi proprio per interventi di promozione delle denominazioni di origine, sia come azione singola di una singola denominazione, ma soprattutto come azioni, diciamo, congegnate che mettano insieme più denominazioni di origine. Quindi naturalmente le politiche di promozione e di marketing continuano a essere importanti. Ecco, mi pare di capire che per cogliere al meglio le opportunità di questo trattato sia necessario anche rinunciare un po' alla nostra piccola frammentazione, perché abbiamo tantissime denominazioni, tantissimi prodotti, però c'è un panorama molto frammentato, parlo perlomeno per l'Italia. Fare un po' sinergia potrebbe permettere di superare, di cogliere al massimo questa opportunità. Ah sì, questo certamente e direi anche di più, in modo tale da consentire, diciamo, di, però questo è ancora tutto da vedere, da progettare, di consentire di promuovere anche quelle produzioni di qualità più limitate, ma che hanno una note all'estero e che hanno una loro potenzialità. Certamente pensare, sognare di promuovere un pacchetto completo di denominazioni potrebbe essere un grande vantaggio, una grande opportunità per il nostro paese. Naturalmente in questo momento non è ancora noto come si chiuderanno, se si chiuderà questo trattato, e quindi dobbiamo sperare che appunto la soluzione che si ottenga sia una soluzione, diciamo, di difesa per quanto compromissoria delle nostre denominazioni, ma di fatto è la tesi che è stata portata avanti in tutti i negoziati bilaterali dagli Stati Uniti, quindi dall'Unione Europea, e quindi è ragionevole sperare che questo avvenga anche in questo caso. Grazie. E terminiamo la trasmissione con alcune notizie positive. Lo scorso 19 novembre è stato approvato in via definitiva all'unanimità dalla Camera dei Deputati il provvedimento sulla tutela della biodiversità. Questa legge prevede l'istituzione di un sistema nazionale della biodiversità agraria e alimentare e un'anagrafe della biodiversità dove saranno indicate le risorse genetiche a rischio di estinzione. Si prevede quindi l'avvio di un piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e l'istituzione di un fondo di tutela per sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori. Sempre in tema di normative, un disegno di legge sul riordino delle aree naturali protette del Veneto è stato annunciato da Cristiano Corazzari, l'assessore regionale al territorio alle aree protette. La Regione Veneto punta così a semplificare e a rendere più efficace l'azione di governance dei parchi, ma anche a potenziare la capacità promozionale di queste aree, cercando di intercettare il pubblico di visitatori potenzialmente interessato a conoscere e apprezzare le bellezze che essi custodiscono. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.